Terzo anello, ad alta voce. Il gioco delle perle di vetro, di Hermann Hesse. Knecht fu accompagnato in camera sua, ma non si coricò subito, benché ne avesse una gran voglia. La sera lo aveva affaticato, sicché non gli era stato facile dominare la voce, l'espressione e l'atteggiamento in modo che Tito, il quale senza dubbio l'osservava attentamente, non notasse quella singolare stanchezza aumentata nel frattempo o sospettasse un malore o una malattia. Comunque fosse, credeva di esserci riuscito. Adesso però doveva affrontare e vincere quel vuoto, quel malessere, quell'angoscioso senso di vertigine, quella stanchezza mortale che era anche inquietudine, ma in primo luogo doveva scoprirne le cause e la natura. Non fu troppo difficile, anche se ci arrivò dopo qualche tempo. Il suo malessere non aveva altra causa che il viaggio di quella giornata, cioè il veloce passaggio dalla pianura a un'altezza di 2000 metri. Non più avvezzo, dopo alcune rare gite della prima giovinezza, a soggiornare a tali altezze, non aveva sopportato facilmente la rapida ascesa. Probabilmente avrebbe sofferto di quel male ancora un giorno o due e, se non gli fosse passato, sarebbe tornato a valle con Tito e con la domestica e al progetto di Plinio sul soggiorno a Bellepunt si sarebbe dovuto rinunciare. Un peccato, ma non proprio una sventura. Dopo queste considerazioni, si coricò e, senza trovar sonno, passò la notte un poco a riandare al viaggio dopo la partenza da Valzel, un poco a cercare di calmare il cuore e i nervi eccitati. Pensò molto anche al suo scolaro, con compiacimento, ma senza preparar piani di lavoro. Gli sembrava preferibile domare quel puledro nobile, ma recalcitrante, con la benevolenza e la consuetudine, senza precipitare e senza ricorrere a mezzi coercitivi. La mattina, quando sentì destarsi la vita in casa, si alzò, trovò pronto accanto al letto un accappatoio che si mise sopra la leggera camicia da notte e dalla porta di dietro, come Tito gli aveva indicato la sera prima, uscì nel corridoio semiaperto che univa la villa con la cabina in riva al lago. Davanti a lui si apriva un laghetto verde, grigio e immobile, sotto uno strapiombo di roccia che si stagliava, con la cresta dentata, contro il cielo mattutino, fresco, lieve, verdognolo, e gettava un'ombra netta e fredda. Ma dietro a questa cresta si sentiva che doveva essersi già levato il sole, la cui luce scintillava qua e là contro l'acuto spigolo della roccia, e potevano mancare soltanto pochi minuti perché apparisse sopra le guglie del monte e inondasse il lago e l'alta vallata. Serio e attento, Knecht osservava quel quadro la cui silenziosa e grave bellezza gli era poco familiare, benché ne sentisse come un monito personale. Ancor più forte che durante il viaggio del giorno prima, avvertiva l'imponenza, la frescura e l'estranea solennità dell'alta montagna, che non viene incontro all'uomo, non lo invita e a malapena lo tollera. E gli pareva significativo che il suo primo passo nella nuova libertà e nel mondo l'avesse condotto proprio là, in mezzo a quella grandezza fredda e silenziosa. Tito arrivò in mutandine da bagno, strinse la mano al magister e, indicando le rocce di fronte, esclamò: «Lei arriva al momento buono. Tra poco sorgerà il sole. Che bellezza quassù!» Knecht approvò con un cenno cortese. Sapeva che Tito si alzava presto. Faceva il corridore, il lottatore, il podista, non fosse altro per protestare contro il contegno fiacco, tutt'altro che soldatesco, e contro il tenore di vita di suo padre. Allo stesso modo che, per le medesime ragioni, aborriva il vino. Queste consuetudini gli facevano assumere talvolta la posa del naturista e dello spregiatore dello spirito. In tutti i De Signori era innata la tendenza all'esagerazione, ma Knecht le apprezzava ed era pronto a sfruttare anche il cameratismo sportivo per conquistare e domare il focoso giovinetto. Era un mezzo come tanti altri e neanche uno dei più importanti. La musica, per esempio, avrebbe avuto effetti più profondi. D'altro canto, non pensava di mettersi sul medesimo piano del giovane in fatto di esercizi fisici o di volerlo addirittura superare. Bastava assecondarlo senza pretese per fargli capire che il suo educatore non era né un codardo né un sedentario. Tito guardava attentamente l'oscura cresta di roccia, dietro alla quale il cielo vibrava nella luce del mattino. Il ragazzo, compreso di quella solenne bellezza e della propria forza e gioventù, si stirò con ritmici movimenti delle braccia, ai quali seguì tutto il corpo, per festeggiare con una danza entusiastica il sorgere del giorno ed esprimere il proprio intimo accordo con il flusso radioso degli elementi intorno a lui. I suoi passi si volgevano con giocondo omaggio verso il sole vittorioso, se ne ritraevano con rispetto. Le braccia tese stringevano al suo cuore i monti, il lago e il cielo. In ginocchio venerava la madre terra. Allargando le mani, salutava le acque del lago e offriva a se stesso la sua giovinezza, la sua libertà, il fiammeggiante senso vitale alle potenze superiori come un dono festoso. Il magister era preso e commosso anche lui dallo spettacolo solenne del nuovo giorno in quella solitudine di rocce silenti, ma più di quella vista lo afferrava il fatto umano che si svolgeva di fronte ai suoi occhi, la danza festosa dell'allievo che salutava il sole e il mattino, la danza che sollevava il giovane immaturo, in preda ai suoi capricci, quasi su un piano di severità sacerdotale, e a lui, spettatore, rivelava istantaneamente le sue più nobili e profonde inclinazioni, e doti, e mete. Così, all'improvviso, come la comparsa del sole aveva svelato e rischiarato quella fredda e tetra valle montana. Il ragazzo stesso era stato travolto da quell'entusiasmo inconsapevolmente. La danza che eseguiva non gli era affatto nota, né l'aveva mai danzata o tentata. Non era un rito consueto o da lui inventato per festeggiare il sole il mattino e, come egli doveva accorgersi soltanto un po' più tardi, in quella danza e nella sua magica ossessione non avevano parte soltanto l'aria montanina, il sole e il senso della libertà, ma altrettanto la metamorfosi che lo aspettava e il gradino della sua giovane vita concretato nella figura del magister, così cortese e venerabile. Molte cose coincisero in quell'ora mattutina nel destino del giovane Tito e nel suo cuore, per distinguere l'ora stessa da mille altre e conferirle un'aura elevata e sacra. Senza averne coscienza, senza critica o sospetto, egli faceva ciò che gli imponeva l'attimo beato, danzava la sua devozione, rivolgeva la sua preghiera al sole, manifestava con gesti e movimenti di abbandono la sua gioia, la fede nella vita, il rispetto religioso, offriva umile a un tempo e orgoglioso la sua anima pia, al sacrificio al sole e agli dèi, nonché al sapiente e al musicista ammirato e anche temuto, al maestro del gioco magico giunto da terre misteriose, al suo futuro educatore e amico. Entrambi stavano sul passaggio fra la casa e la cabina, immersi nella gran luce dell'Oriente, scossi dal turbine della recente esperienza, allorché Tito, dopo aver mosso l'ultimo passo della sua danza, si destò da quell'estasi e, come un animale sorpreso in un gioco solitario, si guardò intorno rendendosi conto che non era solo, che non soltanto aveva vissuto ed eseguito un atto insolito, ma aveva anche avuto uno spettatore. Il suo viso, fino a quel momento irrigidito in una maschera senza età, prese un'espressione infantile e stordita, come di uno che si svegli troppo improvvisamente da un sonno profondo. Molleggiò un po' sulle ginocchia, guardò il maestro con aria allocchita e, come gli venisse in mente una grave trascuratezza, tese di scatto il braccio destro, indicando la riva opposta, avvolta come metà del lago, nella grande ombra che il monte roccioso, sconfitto dalla luce, ritirava a poco verso la sua base, e esclamò con puerile zelo e precipitazione: «Nuotando molto velocemente possiamo toccare l'altra sponda prima che vi arrivi il sole». Aveva appena pronunciato queste parole, appena lanciato l'invito a sfidare l'astro del giorno, allorché con un gran balzo si tuffò nel lago, quasi per spavalderia o per imbarazzo, non vedesse l'ora di allontanarsi e di far dimenticare con attivo fervore la precedente scena solenne. Dall'acqua si levò uno spruzzo che si richiuse sopra di lui. Dopo alcuni attimi riapparvero la testa, le spalle e le braccia, che si allontanarono rapidamente, visibili sopra lo specchio verdazzurro. Quando era uscito di casa, Knecht non aveva avuto alcuna intenzione di fare il bagno e di nuotare, perché aveva troppo freddo e, dopo il malessere notturno, non si sentiva molto bene. Ora, al tepore del sole, eccitato da ciò che aveva visto, invitato amichevolmente dall'allievo, pensò che il rischio non era tanto grave. Soprattutto, però, temeva che, quanto l'ora mattutina aveva avviato e promesso, potesse svanire e andare perduto se avesse abbandonato il giovane e l'avesse deluso, rifiutando con la fredda ragionevolezza dell'adulto un saggio di energia. Lo sconsigliava, è vero, il senso di incertezza e di debolezza che gli aveva lasciato il rapido viaggio in montagna. Ma forse quel malessere lo si poteva superare proprio con un atto di forza e con un gesto impetuoso. L'appello fu più forte del monito, la volontà più energica dell'istinto. Toltosi subito il leggero accappatoio, respirò profondamente e si buttò in acqua nello stesso punto in cui si era tuffato l'allievo. Il lago, alimentato dalle acque dei ghiacciai e adatto anche in piena estate soltanto agli allenati, lo agguantò col gelo di una tagliente ostilità. Egli si aspettava un gran brivido, ma non quel freddo così glaciale che lo avvolse come un mare di fiamme e, dopo una prima vampata, incominciò a penetrargli nelle ossa. Dopo il salto, era riaffiorato subito e aveva veduto davanti a sé Tito, che nuotava con grande vantaggio, ma sentendosi aspramente incalzato dal gelo ostile, si illuse di lottare ancora per diminuire la distanza, per raggiungere la meta della gara, per il rispetto e l'amicizia, per l'anima del ragazzo, quando invece lottava già con la morte che gli aveva fatto lo sgambetto e lo stringeva fra le braccia. Facendo appello a tutte le sue forze, vi resistette fin tanto che il cuore continuò a battere. Il giovane nuotatore si era voltato più volte e aveva visto con soddisfazione che il magister lo aveva seguito nell'acqua. Ora guardò di nuovo e, non vedendolo, s'impensierì. Chiamò, tornò indietro in tutta fretta per assisterlo. Non lo trovò più. E continuò a cercare, nuotando e tuffandosi finché il freddo pungente gli tolse le forze. Stordito e senza fiato, toccò terra finalmente. Vide l'accappatoio sulla riva, lo raccolse e prese a strofinarsi macchinalmente le membra finché la pelle, intirizzita, riacquistò calore. Sedette poi al sole come inebetito, fissando l'acqua, il cui verde azzurro lo guardava ora vuoto e maligno, e quando, scomparsa la debolezza fisica, riebbe la coscienza e lo spavento di ciò che era accaduto, restò perplesso e in preda alla più profonda tristezza, e pensò atterrito: ahimè, ecco che della sua morte sono io il colpevole. E soltanto allora, quando non v'era più da far valere la superbia né da opporre alcuna resistenza, sentì, nella pena del cuore spaventato, quanto avesse già preso a voler bene a quell'uomo. E mentre, nonostante le obiezioni, si sentiva colpevole della morte del maestro, lo prese con un sacro brivido il presentimento che quella colpa avrebbe trasformato lui stesso e la sua vita, e preteso da lui cose molto più grandi di quante fino allora egli avesse mai pretese da se stesso. Sono Massimo Cacciari, riprendiamo insieme il discorsetto su questo romanzo di S, molto complesso dal punto di vista culturale e filosofico, che è Il gioco delle perle di vetro. Ecco, allora, dicevamo l'altra volta, abbiamo esposto il tema fondamentale, ma non abbiamo tratto, come dire, la morale. Ecco, dopo la lettura che ne avete fatto, possiamo cercare di dare un giudizio su quest'opera e di trarre una morale. Perché la vicenda di Knecht, del servo, proprio perché Knecht è il servo patisce la sua condizione e via via nel romanzo, che è quasi un romanzo, un Bildungsroman, un romanzo di formazione rovesciato, la formazione di Knecht, che giunge fino al massimo a essere il maestro del gioco delle perle di vetro, è una formazione che lo porta a uscire dall'ordine, perché ne vede i limiti, perché ne scopre i limiti. Il maestro, il servo per eccellenza, è colui che poi alla fine vede i limiti del gioco di cui si era, come dire, asservito. E ne esce. E quindi la vicenda di Knecht è una vicenda di fuoriuscita dall'ordine di Castalia. Perché ne esce? Perché scopre tutte le debolezze del gioco. Ma quali sono le debolezze, i limiti di questo gioco, che Hesse individua con disincanto, con ironia e anche con grande amarezza, di questo gioco umanistico o neumanistico? Perché non conosce la storia? Sembrerebbe così. Servus, Knecht, attraverso l'amicizia con Jacobus, che è un benedettino, Roma, la grande fascinazione della Chiesa romana per esse e per tanti intellettuali tedeschi dell'epoca, comprende che in Castalia, in quest'ordine del maestro dei maestri del gioco delle perle di vetro, non c'è storia. La loro scienza è tutta metastorica, non conoscono la storia, pensano che la storia di Cartesio, per esempio, di Leibniz, sia disincarnabile dai drammi, dai conflitti, dalle tragedie del XVI, del XVII, del XVIII secolo. È per questo che Knecht si disincanta? Non credo soltanto per questo. Perché Castalia non conosce il mondo? Sembrerebbe anche questo il motivo che Hesse ci invita a riconoscere, no? L'amico di Knecht, di Signori, è un allievo di Castalia, delle scuole di Castalia, ma esce, abbandona queste scuole e nel mondo fallisce. Quindi questo ordine sembrerebbe non conoscere il mondo, non saper conoscere il mondo. Ma io credo che il vero nodo sia un altro, e qui è l'amarezza di Hesse. Questi grandi sapienti, questi grandi eruditi che formano la provincia pedagogica, l'autorità educativa, non sanno creare. Il creator spiritus non c'è, sanno solo conservare. L'erudizione, la custodia delle conoscenze, dei grandi prodotti della spiritualità, è una conoscenza e una custodia soltanto conservatrice. Il gioco è essenzialmente rinuncia a creare. È un gioco senza fede nel potere creare, senza entusiasmo, senza passione e senza vera fede, cioè senza religione. Essi hanno rinunciato a creare in gara, perché creare implica il conflitto, la contraddizione. Non si crea se non in condizioni agoniche, agonistiche. Agon in greco significa gara, significa competizione. Questo determina la fine di Castalia, questo determina l'abbandono di Knecht, del sommo maestro, che lascia Castalia per andare al mondo. Ma immediatamente, questa è veramente una conclusione del romanzo imprevista, imprevedibile e di grande efficacia, di grande effetto, Knecht abbandona Castalia, va dal suo amico di Signori che vive nel mondo, accetta di educarne il figlio è un figlio vivo, arrogante anche, bello, no? Anche bello. E Knecht, ormai anziano maestro, lo vede in un'alba mattutina in alta montagna in riva a un lago alpestre, lo vede che si tuffa per raggiungere l'altra sponda quasi in gara con l'ombra del sole che sta sorgendo, cerca di seguirlo, accettandone la sfida, si tuffa anche lui nel mare ed è il primo, il secondo giorno che è uscito dal suo ordine, dal suo monastero, e annega. Che cosa significa questa fine? Qui il romanzo quasi si interrompe di brutto, no? Cosa significa questa fine? L'impotenza di questo sogno, di questa utopia umanistica, ma anche forse una speranza, la speranza che il figlio, questa bella creatura, questa bella figura, saprà creare, forse, saprà creare o saprà soltanto combattere? Saprà creare o saprà soltanto ritornare all'epoca guerriera che aveva determinato anche la nascita per reazione di Castaglia, cioè la nostra epoca? E questa domanda non è posta direttamente da esse, ma è la vera domanda che conclude questo romanzo. Daniela Di Giusto ha letto Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse, edizioni Mondadori, traduzione di Ervino Pocar, postfazione di Massimo Cacciari, riduzione di Giovanni Piccioni, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.